abbiamo un po' di tempo per discutere, interrogativamente sono 10 minuti, però io inizierei la terza discussione, anche se tardiamo un quarto d'ora da mangiare, lo stesso credo. Allegretti, non solo su questo, però io direi abbiamo materiali sufficienti, abbiamo avuto la dottrina, abbiamo avuto la costruzione, abbiamo la missione di essere. Prego. No, mi sentirei spinto a intervenire su tutto, tanto sono state ricche le prospettazioni di oggi, ma per la parte che riguarda quella che è stata quasi una relazione di Piero Schiere, comunque la relazione di Gozzi, credo che il mio modo di interloquire sia la relazione di questo pomeriggio, che poi si avrà tanta sintonia, come sentirete, con le cose che in particolare ci ha detto Gustavo. Per quanto riguarda la relazione di Arena, vabbè, sono anni che stiamo lavorando, forse in coppia abbastanza, tu vai molto più poi nello specifico, io mi fermo di solito solo ad alcune prospettazioni generali. Diceva lui prima che adesso sta per uscire il mio libro Amministrazione Pubblica e Costituzione, e al centro c'è proprio questo problema, quindi questo non può essere che un intervento adesivo, credo, rispetto ad Arena, cioè addirittura mi spingerei fino a suggerire in questo clima di riforme costituzionali, non sono solo a farlo evidentemente, la necessità di alcune non tanto revisioni quanto integrazioni delle norme costituzionali sull'amministrazione, e la prima che vedrei sarà proprio questa: definire in Costituzione il compito essenziale dell'amministrazione, che è promuovere i diritti dei cittadini. Ecco, insomma, una formula che è premiante, che poi le Costituzioni è chiaro che sul terreno dell'amministrazione più di tanto non possono fare, però credo che sarebbe una formula molto più premiante che quella troppo ellittica dell'imparzialità e dell'efficienza, che c'è già nell'articolo 97, e d'altronde che appunto sarebbe un'integrazione, non c'è un estrarre dalla Costituzione un senso che c'è già, perché come diceva bene Gregorio, l'articolo 3 secondo comma profila fondamentalmente qual è il grande compito dell'amministrazione, e poi tutto il resto, tutto quello che tutta la parte prima della Costituzione, lavoro, la salute, la scuola, eccetera, indica una serie di compiti, certo non esclusivi, ma importanti dell'amministrazione, ed è in funzione di quelli appunto poi che vanno profilati i suoi rapporti con il cittadino. Quindi su questo niente. Invece, sulla relazione di Dreyer, avrei da fare una domanda, una richiesta di precisazione o di estensione sul punto, che mi scuso di non poter fare in tedesco, ci sarà chi può tradurla, e anzi chi gliela traduce farà bene poi, perché io perderei alcuni particolari importanti a tradurre a me la risposta. Il punto riguarda, ecco, mi pare, se l'ho capito, che quando parlava della centralità del principio parlamentare, del Parlamento quasi come punto centrale della democrazia, se non ho perso dettagli espositivi di quello che lui ha detto, di quello che si era riassunto, fosse al centro il Bundestag, cioè il punto centrale, l'istituzione centrale è il Bundestag. Ora, siccome ognuno poi parla anche delle cose di cui si sta occupando, o meglio in questo caso chiede sulle cose che sta studiando, io vengo da un soggiorno in Spagna di un mese in cui ho studiato il problema della trasformazione del Senato spagnolo in Camera territoriale, secondo il principio che sta alla base del Bundesrat, e secondo un problema che si è aperto in Italia, perché non vale in Italia fare una riforma regionale che va fatta per potenza, fatta per Barella, ma per i tanti, per potenziare le regioni, farle delle entità serie. Gli spagnoli dicono che dopo il presidente del governo i personaggi politici più importanti sono i presidenti delle regioni. Ditemi voi se in Italia si può dire qualcosa del genere. Ecco, questo rappresenta il fallimento, drasticamente il fallimento del regionalismo italiano rispetto all'autonomismo spagnolo, che pure ha solo 15 anni di vita. chiusa la parentesi, l'Italia si pone il problema di far sboccare la riforma regionale del titolo quinto della Costituzione nella introduzione delle regioni nella cittadella del potere statale attraverso un senato regionale. Ma su questo bisogna discutere tante cose, ci sono gli spagnoli che discutono, noi purtroppo no, gli spagnoli hanno un dibattito enorme, già sintetizzato politicamente, della struttura, delle funzioni, di tutto quello che avrà la Camera, che di tutti i problemi bisogna risolvere, evidentemente ci sono molte alternative per costruire una Camera regionale. Allora il modello Bundesrat è il più consistente, è il più, tutti riconoscono in Spagna è un omaggio corrente, ma anche in Italia, che il Bundesrat è l'esempio più significativo di un organo centrale dello Stato a livello parlamentare che incorpori le regioni. Però, siccome problemi ce n'è, sappiamo che anche in Germania esistono alcune indicazioni di svantaggi e deficienze che ha il tipo di struttura che ha il Bundesrat, che è espressione degli istituti regionali, dei governi regionali, e che quindi sottovaluta l'apporto possibile dei parlamenti regionali invece. Ecco, allora io volevo chiedere qualcosa su questi. Alla democrazia, come Dreyer ce l'ha esaminata nei suoi principi, in uno Stato composto, come è la Germania, come è la Spagna, già che si avvia a potenziarsi, come dovrebbe diventare più completamente l'Italia, già lo è. Almeno per la Costituzione, in uno Stato composto, in un Bundestag, quindi nel caso germanico, la centralità va riconosciuta a entrambi le componenti del Parlamento, cioè al Bundestag e al Bundesrat? E se sì, a me pare che la risposta debba essere sì, ma sentiremo, nello Stato composto mi pare che potrebbe non essere positiva. Se sì, la struttura del Bundesrat è in grado di assicurare, certamente assicura molte cose, ma appunto assicura abbastanza il principio democratico, o invece è l'espressione di un'eccessiva prevalenza delle istituzioni governative ed amministrative, perché poi sappiamo che al Bundesrat delle commissioni vanno a lavorare i funzionari e non i membri diretti dei governi regionali. Allora ecco, tutto questo come dei governi dei Länder, per meglio dire, non regionali. Allora tutto questo come viene considerato nella sua visione della democrazia, che mi sembra una visione esigente, quindi penso che in questa visione esigente Dreyer abbia qualche problema su cui illuminarci per quanto riguarda un pezzo sia pure felice della Costituzione tedesca che è il Bundestag. Il Bundestag, sono forte, no? Ma mi senti il microfono che così no? Io capisco abbastanza, perdo moltissime sfumature, insomma, quindi vorrei poi la... mit Blick auf andere Mächte, etwa im 19. Jahrhundert konstitutionelle Monarchie und Macht des Fürsten, des Königs. La centralità del Bundestag lui l'ha spiegato soltanto in relazione ad altri poteri, specialmente storicamente, in fronte ai poteri del monarca, la situazione della monarchia in qualche modo, e da lì che si spiega storicamente la centralità del Parlamento, se si parla di centralità del Parlamento del monarca. In questa perspectiva muss man sagen, oder kann man sagen, dass das Parlament von der Peripherie, vom Rand des staatlichen Organisationszusammenhangs ins Zentrum gerückt. Da questa prospettiva il Parlamento si è spostato dalla periferia del centro dei poteri nel centro. Jetzt kommen die föderalen Probleme, weil Deutschland kein Einheitsstaat ist, viele andere Staaten auch nicht, und sich die Frage stellt, wie man Subeinheiten, föderale Subeinheiten, die auch demokratisch organisiert sind, mit der demokratischen Zentralebene verbinden kann. Adesso arriviamo ai problemi federali, cioè ai problemi del collegamento di subunità in uno Stato non unitario, che a loro volta hanno una struttura democratica con la struttura democratica centrale. Il problema del collegamento. Das heißt also, es gibt ein bestimmtes Problem des Demokratieprinzips im föderalen Staat. Das ist Ihr Punkt. Il suo punto, giustamente, il problema del principio democratico nello Stato federale. Ich sehe zwei prinzipielle Lösungen für das Problem, von denen die Bundesrepublik eines realisiert hat. Due soluzioni per questo problema, di cui uno è stato realizzato per il Es gibt das amerikanische Senatssystem, es gibt das deutsche Ratssystem, wenn man so will. C'è il sistema del Senato americanitense e c'è il sistema, se vogliamo, consigliare tedesco. Das amerikanische Senatssystem ist in meinen Augen theoretisch das dem Demokratieprinzip näherstehende, weil es unmittelbar die Bevölkerung wiederum einbindet und die Bevölkerung der Bundesstaaten in einer zweiten Kammer repräsentiert sein lässt. Il sistema statunitense del Senato, dal punto di vista teorico, è ovviamente più vicino al sistema democratico perché integra soprattutto le popolazioni degli stati attraverso questa rappresentanza nel Senato. Trotzdem glaube ich, dass das deutsche System sich historisch bislang bewährt hat. Nondimeno penso che il sistema tedesco, dal punto di vista storico, ha dato buona prova. Es hat bestimmte Defizite, Macht der Exekutive. Ma senza, vi sono senz'altro dei deficit, l'influenza e il potere dell'esecutivo, degli esecutivi, was man nicht leugnen kann, aber ich weiß nicht, ob das amerikanische System, obwohl es theoretisch stringenter ist, passen würde für die deutschen Verhältnisse oder für spanische oder für italienische. C'è però un terzo sistema, che è quello della rappresentanza dei parlamenti. Il sistema austriaco in Austria è il sistema della rappresentanza del Parlamento, del sesto posto in Parlamento che Ich glaube, dass jeder Staat, jede Nation eine eigene Lösung suchen muss in diesem Punkt, wenn sie sich föderal organisiert. Sicuramente lì la soluzione non può che essere nazionale, ogni nazione deve cercarsi la propria soluzione, specialmente quando tende verso forme di organizzazione federale. Ein letztes Wort. Alle Probleme stellen sich neu und verkomplizieren sich gewissermaßen durch die Frage, wie man diese Ebene integriert in die Europäische Union. Das ist eine schwierige Frage für die Rolle des Bundesrates im Augenblick in Deutschland. L'ultimo un'ultima chiosa da aggiungere, è chiaramente che questi problemi si complicano ulteriormente se teniamo presente che queste strutture devono essere integrate in una struttura europea. Questo attualmente è un problema principale che riguarda la definizione del ruolo dell'Eurostat nel modello tedesco, all'interno della costruzione tedesca. E tu mi sono andato sull'aria che la volta. C'è forse qualche domanda breve da fare subito, se no interrompiamo e andiamo invece alla colazione e poi riprendiamo le tre, deve essere tre però 3-5, insomma, molto puntuale. Facciamo così, quindi chiudiamo adesso.